Vabbè, fallato. No, Prendere anche lo bruttissimo. schiocco di dita. No. Pazzesco. Bene, oggi sentirete anche Giulio senza particolari fastidi. Guarda, è fantastico, pazzesco, incredibile. Prende Bene. solo quando parlo. Benvenuti a Giulio e i misteri del comprare un microfono che funziona. E no, Adesso scherzi a tutta parte. la sera fare rumori a caso. Esatto, questa è La Maledizione di Katta, episodio 81. Siamo tornati, noi siamo Tycoons and Dragons, Rim GDR, siamo qui per appunto l'81esimo episodio di questa infinita maledizione iniziata di fatto 4 anni fa, 10 anni fa. 700. Esisteva Facebook all'epoca? Penso di sì. E non Esisteva possiamo già tra l'altro Dungeons neanche and andare a Dragons. rivederlo il primo episodio perché di fatto c'è stato tolto, però potete riascoltarlo assolutamente. Oggi Oh, sarà l'avevo l'ultimo, noi rubato. ci proveremo, ma probabilmente non sarà Il l'ultimo. primo, la casa della morte o il primo? Il primo La Casa della Morte è stato molti anni fa, il primo episodio della menzione di Kat è stato più avanti, forse verso gennaio dell'anno successivo. Comunque. Vi diamo il benvenuto se ci state seguendo in diretta e vi diamo il bentornati anche se ci state seguendo sul podcast quando sarà. E Guarda Giulio, guarda Giulio. bravo Giulio, aziendalista, io l'ho messa a lavare. Perché? Perché siamo stati ieri a Lucca. Se ci avete visto, non ci avete salutato. O se ci avete salutato, voi noi non vi abbiamo visto. Ah, Certo, che molti sono ci hanno team. guardato con quella maglietta dicendo: beh, chiaro, questo era un cosplay di. Ma guarda invece quella lì con le tette di fuori. Però non ce n'erano così Detto, tante come gli guarda, un avviso. cosplay del video, polizia interrompe sessione. Bravo, Catta, vedo che sei sul pezzo. Vedo che sei sul pezzo. Allora, i nostri ospiti, direi che oggi siamo a formazione completa, visto che di fatto il nostro buon Francesco Arcidiacono ormai non gioca più con noi da un po', ma noi lo salutiamo sempre, sempre nei nostri cuori. Giulio Bosi invece con noi, il nostro master Enrico Gattabriga, Stefano Gamberoni, Marco Bosi e Edoardo Saladini, oltre a me, Ciao. Andrea Giacomo Vecchi. Prima di iniziare, posso dirvi che non ci sono nuovi episodi sul podcast al momento, ma se andate sul nostro blog avrete due nuove paginette piccoline, che parlano della maledizione di Katta e di Umbra Imperi, una specie di intro se volete andarvela a leggere. In Umbra, Se... nella maledizione di Katta c'è scritto no. più o meno sì, Il peggior errore della mia vita. più o meno sì, e ovviamente mi potete anche correggere, Cata tu potresti anche correggermi, ma ovviamente non correggerò la pagina. E Giulio invece ha scritto qualche castroneria, dimmelo che magari la sistemo. E niente, direi che possiamo iniziare. Cata, Bene, Squid oh. Game, perché? Perché non dobbiamo morire. Dov'è letto Squid Game? Spoiler, cosa? Catta, l'ho Susanna. appena ascoltato per mezz'ora. La versione da un'ora. Mentre leggevo il post. Bene. Pessima La scena. sigla di oggi ci è offerta dal ridente pianeta Salusa Secondus. Casa di ridenti Spero di praterie e. averlo scritto giusto. Salusa Secundus. Sì, andrà benissimo. E questo è giusto per sottolineare il fatto che. Siamo morti. No. Ancora no. Non particolarmente. Purtroppo. La Come. morte è una Dai, liberazione. Nubbio di. Riassunto. Chi riassume? Bene, allora, Vuoi riassumo siamo... io? I dettagli mi incarto un po', però... Vai, Volete riassumi tu. riassumo io col microfono nuovo? Sì, Vai, vai. assolutamente, grazie. E ogni tanto batti le mani tra una È parola e pazzesco sta l'altra. cosa del suo microfono, te lo voglio. Allora, Parliamo nell'ultimo... poco Non però. posso... 139, credo. No, Jack e Nababbo, di Esatto. luglio. Esatto. Aspetta, che ripeti Allora, le stesse cose. nell'ultimo non è fastidioso per niente. Nell'ultimo episodio abbiamo deciso di chiudere la stanza. L'ho ascoltata per un'ora. Come cazzo ho fatto? Ora è pronta a fare il riassunto. Pazzo. Di richiudere la stanza in cui abbiamo trovato la barra di strado. E dopo che avevamo. Secondo me Giulio, se lo metti tipo ad alto volume il microfono non te lo fa, non te lo prende. Il canto? Eh sì. Non lo so, magari dopo provo. No, scherzo, perché è un tipo un rumore di disturbo, lo considera. Esatto. E poi stavamo pensando al da farsi. Ci siamo spostati lì nelle catacombe. A un certo punto Garrosh e Vardistran sono scomparsi. No, prima c'è. Scusa, non c'è tutto il combattimento dentro dalla bara? Sì, vabbè, ma abbiamo vinto, quindi quello fa. No, è perché lui è scappato, dal motivo per cui siamo usciti a cercarlo. Va bene, va bene. Fallo te allora. Riassunto allora, se sei così capace. No, vabbè, dentro la stanza di strada è arrivata la moglie. In difesa del fratello. È arrivata una delle mogli. Tra l'altro sa l'ultima moglie sopravvissuta, sì, con alcune progenie. Per ucciderci, no? Quindi abbiamo iniziato l'ennesimo scontro. La tizia molto coraggiosamente è fuggita dopo che ha visto che l'avrebbe presa. E Sfortuna l'ha inseguita, uccidendola. Noi abbiamo ucciso intanto le progenie, poi siamo andati in cerca di Sfortuna, ma Sfortuna al suo solito ha detto: ehi, cosa posso fare? Nascondiamoci e non diciamo niente agli altri. Sì, più o meno. Merda, raga, sta roba è fastidiosissima. E quindi abbiamo iniziato a vagare per il corridoio. Se si aver allontanato qualche altro spettatore, ma fortunatamente il gatto sta cercando di farci impazzire. Ci siamo quindi allontanati alla ricerca di Sfortuna, dopo aver ucciso le progenie e richiuso lì la grata della tomba della cella della tomba di Strand. Mentre c'era sta cosa, Vardistran e Garrosh hanno preso contro qualcosa e sono scomparsi. Al loro posto sono comparsi due Wraith. Abbiamo semplicemente camminato in un punto particolare, nel corridoio. Scomparsi. E sono ricomparsi dentro un pozzo in una delle tombe che avevamo precedentemente visto, che aveva un pozzo. Ci sono poi liberati dalla bara in cui erano dentro e sono tornati fuori mentre io e Sfortuno ci davamo i Wraith. E dura due ore sto coso. No. Ma tanto la metto in loop tutta la sessione. Esatto, è la musica in sottofondo. Hai detto TPK. Ora sono io. Quindi dopo un certo punto siamo riusciti a ritornare tutti assieme, però non sapendo dove passare, io ho spinto Garrosh di nuovo nel corridoio con il suo senso e lui è di nuovo scomparso ed è comparso un altro Wraith. E basta, questo è successo nell'ultimo episodio. Quindi tirate l'iniziativa. Saluto live io. Ma siamo tutti lì, non mi ricordo. E a parte Sheo, che adesso è tornato lì nella barra. Sì, esatto, gli altri sì. Questa volta Garrosh è in una bara diversa rispetto, anche perché l'altra l'aveva tipo sfondata, mi sembra. Diciamo che se uno vuole usare un po' di intelligenza. Quante erano le bare? 11? Le bare erano una dozzina, adesso te lo dico. Secundus, raga. Finite tutte le bare. Secundus. Secundus. In teoria sentite tutti. Ah, ok, quindi ah sì, che cantavo 15 uomini alla cassa. Ok, rega, qualcuno termini questa cosa. Ora. In realtà banda, è tutta un'atmosfera particolare. Sì, io era in riferimento a quando Arci diceva: ah, non ha una colonna sonora così impressionante. Una scena di un minuto praticamente ti racconta, ti fa capire quanto è Katta che si è legata al dito. Certo. Esatto. Questa è la vendetta di Katta. Sì, ma contro Arci, sì, contro me, con cazzo vuoi? Non si imparato a frequentare quella gente lì. Katta non cioè non discrimina. Proprio è avete ragione, però mi dispiace, siete capitati, siete degli vittime innocenti della tirannica follia. Chi era vittima meno innocente? Che il microfono potrebbe prenderla, perché è comunque una voce, il microfono potrebbe riconoscerla come voce. Cioè, adesso provo. Sardaucer canta. Comunque diciamo che eravamo arrivati a capire che se ci passiamo a sostituire 15 volte appariranno in totale 15 variety e dopo dovrebbe smettere. Però possiamo, e dopo anche dovrebbe farlo, smetterla, però. A voi la scelta. E, un'altra cosa che ti ripeto, prende, quello che vedi. No, non lo prende. Non lo prende. Un'altra cosa che c'era dentro la cripta dove si viene teletrasportati è che il pavimento è completamente ricoperto di ossa. E ossa e armi arrugginite. Probabilmente persone che hanno fatto la nostra stessa sorte, ma sono rimaste lì. Si può pensarla così. L'iscrizione diceva, c'era un nome, okay, Stabal Indibak. Un amico più vero, nessun regnante ebbe mai. No, credo di averlo abbandonato per la vita. No, non è vero, lo sono disconnesso. No, qui giace la sua famiglia in onore. Adesso la rifacciamo a cappella. Rega, mi spello uno alla volta. Non hai il potere di spenderci tutti. Proviamo. In realtà credo di sì. No, sono disconnesso. Sì, diciamo che le intenzioni non sono comunque quelle di rifare apparire tutti i 15 Wright, chiaramente. Niente, abbiamo un Wright davanti e Garrosh è di nuovo scomparso. Esatto, tirate l'iniziativa. 9. Vediamo come si comporta. 9 anch'io. Io ho fatto 20 di dado. Sempre. Più... 156. 25. Si guarda sempre la destrezza o scegliamo cosa? Noi? 17. Che tiri questa campagna. Non mi è mai capitato il pareggio, mi sa. Ovvero non che me lo domanda ricordo. È? Noi in questa cosa qua. Decidiamo lui in teoria. Hai fatto 9 anche tu, no, Gabriele? Sì. Beh, essendo anche in posti separati, è ininfluente. Ah, cavolo, in questo computer non ho la scheda. Vabbè, andrò senza schiena. Sfortuna. Io ho tirato 8, adesso mi guardo quanto è il mio modificatore. Dopo 3 anni il mio personaggio lo conosco. Sì, è vero. Diciamo che dopo 8 più 5 è 13. Ok. È un altro segno. No, ma Giulio, dopo che sei salito così tante volte di livello, ormai non ti ricordi più niente. Dopo 3 anni e dopo un anno che sono allo stesso livello. Un anno adesso. Quando sei salito l'ultima volta al tempio, no? Quando prima delle salite. Meglio non rivalgare. Allora, il fatto che non ce lo ricordiamo direi che è la risposta. Forse in primavera. In primavera. Dico, non è un anno, ma quando c'era ancora speranza. C'è ancora speranza, ministero. In che senso? In che senso? Aspetta, discordetti, cazzo. Ok, però. Ok. Agisce per primo il Wright. Ovvio. Ma non ha fatto 20 salve, è pazzo. Io metto 25, catta. Quanto cazzo ha fatto questo? Ah, non avevo segnato. Ah, perché la volta scorsa non c'eri, stupido Sal. Ti devo reinserire. Minchia, quanto cazzo ha fatto? Ok. Vai, Sal. C'è qualcuno attaccato al right? Tecnicamente sì. Atanas che ha appena spinto Garrosh dentro al corridoio. Perfetto, lo attacco. Con la spada laser. Ah, perché tu... Tu l'ultima volta non c'eri, vero? No. Beh, avrai capito tutto dal... Esatto. Attiro la tua attenzione sulla mappa. Ah, non me ne frega un cazzo, non voglio guardarla. Esatto. Sto mettendo a posto le foto di Luca. Io non voglio vedere la mappa. Le X sono i punti in cui i vostri amici hanno varcato quel punto e in un flash di luce sono spariti, al loro posto è comparso un Wright le ultime due volte. Tu sei qua. Nel senso qualcosa. Che se ti muovi... Il Wright è qua. Esce un altro Wright? Sì. Però non è maybe. No, non devi combattere. Non lo sai, è una teoria. Abbiamo già capito cosa farà Vez. Cosa farà Vez? Andrà lì, così non dovrà combattere perché finisce di là. Allora scusa, e se provassi a fare un passo indietro invece? Non succede niente. Cioè indietro verso sud, dici? Quindi verso Patk, sì. O qui. Sì, di fatto non sappiamo se sono gli unici. La seconda che hai fatto, Katta, vado lì. Ok. Che tu l'altra volta non c'eri, ma quello che abbiamo pensato è che si è attivata questa cosa perché abbiamo aperto... la stanza di Strad, della tomba di Strad, quindi noi non sappiamo in realtà se questi non perché sono l'abbiamo lui... aperta, perché siamo entrati. Comunque, beh, non me ne frega un cazzo, questo microfono al push dito to talk automatico, cioè qualsiasi rumore io faccia se non parlo non lo prende. Vai Giulio, rutta. Il rutto lo prende. Adesso vediamo. Per sorso di birra, dai. Se tipo invece gratti sul microfono e fai toc toc toc, si sente? No. Meraviglioso. Non faccio poi nient'altro. Quindi non puoi fare gli ASMR lì, quelle cose lì. No. Giulio, sei passato tipo dall'età della pietra al futuro. No, futuro, probabilmente se cambiassi le impostazioni, sì. Devi togliere il filtro. Vabbè, capito, però è migliore di quello che hai tu. Non c'è l'impostazione che filtra la tua voce, ma non i rumori. Ma a me invece Vette sta benissimo dare fastidio. Quello conferenza, non mi ricordo. Io l'ho preso apposta per darvi fastidio. E se nella prossima puntata l'ospita ha il mio sallotto solo per la qualità audio. Perché l'avete sentito, no? Sì. No. Sì. No, io non sento niente, Vez. Non sento neanche me. Devo sto parlando. Ecco, così sentite anche il rumore. Evviva! Prova. Perché era perfetto? No. No, non è vero, non si sente. Non è vero, falso. C'è neanche lo schiocco delle dita. L'hai sentito tu perché hai le orecchie lì vicino alla mano, ma noi no. Uno l'ha sentito, gli altri no. Il primo sì, il primo. Cioè, rega, muovetevi, che sennò come cazzo moriamo? Dai, rega. Il tuo turno finisce qui? Sì. Ok. Ah, quindi sei fermo? Sì. Vedi, c'è un altro modo. Aspetto un rumore da Giulio. Però qua c'è il Wright lì davanti, no? Vediamo c'è cosa googola il master. Le statistiche di quello che state affrontando. Ah, ok, continua a farci vedere. State ancora vedendo la pagina? No, no, adesso è a posto. Ok, vabbè, tanto non è nulla di segreto, voglio dire. Cosa, sto tizio 200 fa... punti esperienza. Sto tizio fa i soliti due attacchi con la lunga spada e se vuole fa il life drain. Ho messo anche il guadagno al massimo, ma non riprende i rumori diversi dalla voce. La prossima sessione lo vedremo che non ha più quel microfono perché non è più divertente. Allora Atanas, inizierò a provare armatura. Tipo con la tromba, con i piatti. 18. 18. Sì, un colpo ti manca, un colpo ti prende. A un certo punto vedremo i vicini arrivare da Giulio in cazzo. 10 danni taglienti. Che faranno rumore arrabbiandosi e noi non sentiremo con niente. La sua scimitarra spettrale. E ora tocca a te. A me. Quindi che è successo? Il Wraith ha attaccato Atanas. No. Gli ha sferrato due colpi e ha colpito con uno. E gli ha fatto 10 danni. E gli ha fatto 10 danni, sì. E taglienti. Il minimo è 16. Di classe armatura? Colpiscono. Ok. Lui ha resistenza agli attacchi non magici che non siano d'argento. Io ce l'ho una spada d'argento. Sì, tu hai una spada d'argento. Sì, anche una spada magica. Anche una spada d'argento. Quindi sono 6, 3, 9. L'altra, quella magica, è corta. Sì. Quindi puoi usarle entrambe volendo. Quindi, comunque, perché ho. È vero, sì. Poi, anche se non lo fosse. Anche due spade lunghe potrei usare. Anzi, esatto. Prima le usavo. Poi. Vero. Aspetta, cos'era? 12, 15. Più 7 per 3, 21, 36. 36. Ok, la sua consistenza ectoplasmatica subisce un grosso colpo. Diversi grossi colpi, ma è ancora lì. Sfortuna. Viene considerato ingaggiato dove sono? Tu no. Al fine di attacchi a distanza. Non hai, piedi? Non hai svantaggio, no. Ok, tiro 6 a 10 piedi. Plus. Più. Allora. 10 e 26. 26 colpisce. Vedi il set di dadi, Giulio, come lo usi? 6 danni. Hai fatto bene a regalargli un set di dadi. Lo so. Ok. Garrosh. Quindi. Ti ritrovi... È una cosa simbolica, cioè un giocatore di ruolo deve avere il suo set di dadi. Sì, sì, no, certo. Ti ritrovi... Sì, gliel'ho detto prima. Di dover avere un set di dadi perché è un giocatore di ruolo o che gliel'aveva regalato? No, che gliel'aveva regalato. Magari gliel'ho rovinato la sorpresa. No, ho scoperto adesso che è in prestito, non è regalato. Sì. Va bene, ti ritrovi di nuovo nella tomba, in una bara. Faccio una prova di athletics per uscire. Prego. Oppure potrei provare a spaccare tutte le tombe così magari non escono più. Intanto devi fare una prova per uscire da dove sei. No, però... voglio provare a spaccare le tombe dove sono. Ah, uscire dalla barra dove sono. Sì, capisci che le cose devono avvenire in sequenza. 20. Esci. No, pensavo di essere già uscito la sessione scorsa. Per quello. Non 20. Mi sembra, ti ha appena spinto dentro. Sei uscito, ti ritrovi nella catacomba. Con le altre bare e gli scheletri per terra, gli ossa per terra. Non ho il tempo di provare a spaccarne un'altra, immagino. La tua azione l'hai fatta, adesso è il movimento. Quindi... No, rimango lì. Va bene. Vardistran. Ehi. È vero, arbitrariamente non stavo bene. Dove... Scusa, puoi spostare un po' la mappa? Sì, ero indietro un po', no? Tu sei qua. Riesco comunque a arrivare da sto bagaglio, no? In teoria. Sì, a 15 piedi. Va bene, lo attacco, dai. Prego. Siamo qui per questo, giusto? Vadi pure. Allora, faccio un primo attacco dove faccio 27 per colpirlo. Colpito. Un attimo. 2-2, ritiriamo, vediamo se va meglio. Decisamente 17 danni. Muore. Bene. E poi urlo: fermi, non passate più di lì. E io ci passo. Peccato che Giulio ti spinge di nuovo. Esatto. No, vabbè. Right. Io non ci passo, okay. Ci passi tu. Floop. Ok, che cosa fate? Ah, giusto, quindi... Sì, voi che, so, voi... aspetta, vai, prima di te, Garrosh, gli altri che cosa vogliono fare? Race? Sì, hai... voi che, voi... aspetta, prima di te, Garrosh, gli altri... Beh, io mi sento. La diretta va, sente. Va bene, là. Sì. Le voci si sentono. Ma proprio i rumori diversi dalle voci. Race, ti guardi intorno e guardi cosa fa gli altri o hai sì. delle idee? No, okay. Non ho alcuna idea. Atanas? Vabbè, dico ok. Abbiamo okay. appurato che passando in questo corridoio si sparisce. Ok, sparisce. Sfortuna. Fai qualcosa di significativo prima che faccio un passo Garrosh. Indietro. Okay. Faccio un passo in avanti. ok, Vardistran, hai qualcosa da dichiarare? Ah, questo è morto intanto. Anch'io arretro e dico non passate da questo corridoio. Andate a quello successivo e rincontriamoci. Okay. Beh, andiamo tutti insieme. Ok, Garrosh, ti ritrovi? Io voglio provare. Ah, dice gli altri, sì, scusa. Sì. Spacco una delle altre barre. Cioè, l'intenzione è spaccarle tutte in modo che non escano più right nella mia okay. testa. Può funzionare. Athletics? Lo dico subito. Che cazzo avete fatto? Che cazzo avete fatto? Così i Bright escono, ma sono tutti lì con Garrosh. Sì, lo so. E se non tiro a colpire, tiro lo stesso bonus, quindi... Mm-hmm. Quindi tira. Comunque un più 8. 26. Tirato okay. un 18. Apri il coperchio della bara. C'è l'idea di okay. romperlo proprio. Ok, rompi il coperchio della bara. Dal coperchio frantumi esce la consistenza ectoplasmatica di un ennesimo white, non bright, senza la R. Sì. Anche gli altri. Ok. Mi chiudo dentro una bara. No, vabbè. La mia azione l'ho fatta, questo posso provare a scalare per scappare? Allontanandoti provochi un attacco di opportunità, però puoi farlo. Ma abbi coraggio le tue azioni, picchialo. Non posso in questo turno, mi allontanavo per provare a caricarlo dopo dall'alto, saltandogli in testa. Posso, vabbè, subisco un attacco di opportunità, ma posso tipo aggrapparmi per andare tipo a metà del pozzo per poi cascargli in testa col pendolo. No, non è proprio in fondo al pozzo. Il pozzo è da il canale verticale da un lato. Ho comunque la, sì, tu hai abbastanza possibilità di caricarlo, hai comunque abbastanza spazio di manovra per andargli addosso se prendi la rincorsa. Tanto lui ti manca. Allora, intanto... Ok, e devo fare un tiro? O... No, se devi soltanto prenderti un po' di spazio non c'è problema. Ok, okay. Allora, se gli altri nel frattempo stanno lì cercando di capire il come per cosa, c'è la possibilità che il mio spaccare una bara sia sentito da loro o è troppo lontano? È troppo lontano. Peccato, perché c'era la possibilità che fosse ignorato. Beh, in realtà no, dai, abbiamo detto TPK, era perfetto. Esatto, però sì. Prima ho bisogno di effettivamente di vedere che cosa fanno loro. Per cui, Vardistran vi ha detto, da qui usate l'altro corridoio. Qual è l'altro corridoio? Quella io dico, ma Vardistran, Garrosh non è ancora uscito e vado dritto nel corridoio. No, no. Paro però. Intui quale indichi, quello a est o quello a ovest? Che responsabilità? Nessuno di noi è passato da nessuno dei due, giusto? Mm-hmm. Allora aspetta, noi quando eravamo venuti giù dalla tomba eravamo venuti in teoria da questo corridoio dove ora appaiono sti Wright, giusto? Quindi in realtà... Ma probabilmente anche da un altro, non mi ricordo esattamente che giro avete fatto. La cosa sono cambiate dopo che siete usciti da... siete tornati indietro. E diciamo, se, questa storia che prima non c'era, adesso invece c'è. Allora, noi in che direzione dobbiamo andare? Partiamo da questo presupposto. Allora, se il vostro obiettivo è... tornare su. Tornare su e... andare a destra. Andare a... no... se volete andare su alla sala della cerimonia, c'avete la scala a chiocciola qui in K18, che è quella da dove siete scesi sfondando quel muro. Va bene, allora verso sinistra, dai. Ok. Allora, quindi tu dici, ci troviamo, usiamo quest'altro corridoio. Race, che percorso fai per raggiungerli? Non posso seguire lo stesso corridoio andando dritto a sinistra e poi girando a destra? Questo? Sì. Ok. Allora. Mi sembra un'inculata. Sì, vabbè, sicuro. No, sì, okay. Perché quando Race arriva in questo punto, vedete un flash di luce, anche tu Race lo vedi, Race sparisce e al suo posto compare un Wright. Dai. Tu Race ti trovi immerso nell'oscurità in uno spazio confinato pieno di polvere. Ma si vede qualcosa dalla mia spada di luce? Sì, che sei dentro una bara. Ah. Quindi ho splittato il party malamente. Ritiriamo l'iniziativa? Potrei tenere quella di prima in realtà. Vediamo. Race, che cosa fai? Che faccio? Spingo la bara. Prova di forza. La cosa. Vabbè, raga, non uscirò mai più. Aspetta, mi si è laggato tutto. Dio, svedese, lurido. Congratulazioni. Congratula 20-12. Mi sa con meno 1 in forza, ma non vorrei dire una cazzata. Ok, controlla. 11. 11. Ok. Garrosh, senti un qualcosa che cozza dall'interno di una delle bare. Tipo toc. Un alto fright. Esatto. Ma il coperchio non si apre. Ma riconosco, a parte le battute, dice qualcosa? Riconosco. No, lo so, dice qualcosa? No, in realtà no, non dico un cazzo. Ok, Atanas. Meno il coso. Prego. Praticamente quello che sto facendo dalla sessione scorsa. Menare i vrechi e compaiono. E spingere i nani. Ho fatto 11-11-11, che quindi significa 22. Ah no, di dado. Ok, sì. Le colpisci. Quindi sono 8, 10 più 21, 31 danni. Però. Ok. Sfortuna. Vediamo, mi metto in una posizione, ho linea visiva che immagino sia quella in cui dove sono adesso. Sì. E tiro il dado stavolta due volte. Oh. Uno ho fatto 18 vedi che e bello. Una 8. Ho comunque un più 8, quindi il minimo è 16. Colpisce 16. Cioè, hai tirato i dadi? E ha tirato i dadi. Vedi che funziona, no? Entrambi. Ha funzionato. 16 colpisce, quindi. Sì. Ho un più 4 e faccio 11 e 6, quindi 17 danni. Muore. Comunque c'è proprio la traccia Salusa Secundus, che è proprio quella. È proprio quella sonora, sì. Di Anzimmer. Ok. Garrosh, prego, carica. Sì, esatto, lo carico. 19, quindi prende. Saprò cosa ascoltare in loop prossimamente. Oh. Vabbè, hanno fatto dei meme stupendi. Il primo attacco fa 12 danni. 12. Il primo 12 danni, sì. No, scusami, ho tirato il dado sbagliato, è vero che sto usando la lancia. Cancella. Ho fatto 8 danni, e così sono magici. Col secondo, sì, quindi vale il caricamento. Sì. Bello. 12 colpisce? Mamma mia. Che sfiga. No, 12 non colpisce. La porca troia. Ultimo attacco. Fatto, sì, colpisco 22. 4 col dado. E 7 danni con l'ultimo attacco. 7, ok. E l'ultimo attacco con cosa l'hai fatto? E... sempre con la lancia? Sì, ok. Perché? Non mi ricordavo la descrizione che ti avevo dato, se è tipo l'attacco con lo scudo o è un attacco normale. Vabbè, Bardistran. Vai. Il fantasmino è stato eliminato. È eliminato da Sfortuna. Faccio due attacchi. Io faccio due attacchi normalmente, quando carico ho quello, mm-hmm, il secondo che a metà ne ho uno extra. Mm-hmm. Rimane, okay, Patk, giusto? Sì, rimane Patk che furbescamente non si è mosso. E niente, quindi questo è il modo in cui noi perdiamo Arci, che rimane fermo lì, aspettaci. Niente, vabbè, non posso fare niente, io rimango lì, cioè che cosa... Ok. No, aspetta, dobbiamo ricercare gli altri, solo che se Patk si muove... Beh, vabbè, se gli dici di star fermo. Vabbè, ma abbiamo bisogno che venga anche lui in teoria. Quindi di là non passa. Dove potrebbe passare? Dalle X. Ritento. Come dalle X? Cioè, sì, è vero, potrebbe passare dalle X. Dipende, in teoria ti direi dall'altro lato, ma probabilmente anche dall'altro lato, sopra la tomba. Tu dici che le X... nessuno è mai sparito due volte dalla stessa X, o sì? Sì, tu. Sì, perché è io dove mi ha rispinto Giulio. Sì, l'abbiamo fatto apposta, quindi... per provare. Quindi lo stesso punto due volte. No, allora niente. Ma sappiamo io... anche che i numeri di Wright sono finiti. Può provare a scavalcare la tomba, la cripta, cioè invece di attraversare corridoio. Salta, Pat, salta. Oppure saltare, lui può diventare anche un'aquila e volare. Oppure rimane lì. Oppure rimane lì, va bene. No, nel senso, cosa vuol dire? Oppure c'era un teletrasporto dalla cosa? Bisognerebbe chiudere la tomba. Forse. O l'abbiamo già fatto? No, non c'entra la tomba perché abbiamo perso la protezione visto che siamo entrati dentro. Scusami, la sessione scorsa, quando Sfortuna ha inseguito la tipa, non mi ricordo, come è uscito Sfortuna da qua senza attraversare il corridoio? Dal portale. Ha fatto Misty Step. No, dal portale. Dal portale teletrasporto a destra, che ha usato la moglie di Strand. Sì, esatto. Sì, seguendo la moglie di Strand. Ok, allora vai. Vabbè, io non lo so però, in realtà. Sì che lo sai. Vieni. Va bene, avete visto? Allora prova ad andare dove è andato Sfortuna. Va bene, Pat che si incammina. Ovviamente, però, sì. Nel frattempo, il Wright nella tomba attacca Garrosh. Classe armatura. 19. Così tanto. Ho lo scudo. È vero, lo scudo. Un colpo ti manca. E l'altro ti colpisce con il suo succhiotto. Life Drain. Fare il contrario. Altrimenti non lo uso mai, dai. Quindi lui ti fa... Scusa, ti mancherebbe. Fa 4 danni necrotici, attenzione. Devi fare un tiro salvezza sulla costituzione. Grazie, vicino. Sto scherzando. Vabbè, un cazzo di più 9. 19. L'hai passato. Ok. Questo era il right. Race, sei dentro la tomba. Riprova a spingere. Prego. Merda, rega. Perché di forza? Ma di qualcosa, Cristo, chiedi aiuto, sai che sei sono calmo. Lì. Fumble! Mi metto a urlare a quel punto. Garrosh, senti delle urla provenire da una tomba lì vicino. Ok. Athanas. Tipo, sono un Wraith, uccidetemi. Ah, no. Ok, io guardo Vardy strano e dico, cosa dobbiamo fare? Vardy sa che cosa risponde. Non lo riconosco e gli chiedo chi è che risponde in maniera evasiva. Beh, noi cosa, perché noi cosa abbiamo sentito? Niente. Beh, voi avete visto la scena del vostro ladro che scompare e il fantasma che appare al suo posto. Avete ucciso il fantasma. Ma noi sappiamo da dove torniamo, perché ci siamo venuti noi. Quindi esatto, ci camminiamo verso dove siamo usciti. Ok, okay, questa è la risposta di Vardistan. Athanas, cosa fai? Faccio quello che dice Vardistan. Vado al punto dove faccio uscire l'altro. È più facile alla fine, se devo andare lì è la cosa più veloce. 60, ok. Dov'è che stanno loro qua? Va bene, ti incammini verso la cripta 14. Scusa, ma andate sulle X? Ci arrivi prima, è vero. Sfortuna. Ah, cosa rimane? Li seguo. Ok. Mi nascondo. Li seguo nascondendomi. Garrosh. Hai un right contro. Prego. Minchia, il primo faccio 10. Oh, sei potentissimo, eh? Il secondo faccio 22 con 7 danni. Minchia, sto tirando malissimo stasera. 7. Ok. Vardistran, ti accodi? Sì, l'ho proposto io. Prode manipolo e incredibilmente ti hanno ascoltato. Ok, Wraith contro Garrosh fa cagare, manca con entrambi gli attacchi. E mi nel frattempo giusto. È uno scontro chi fa peggio, bel duello là sotto. Nel frattempo Patk fa e ricompare. Quale cazzo di cripta era? Vabbè, non importa. La forma della bene. Mi sa che era la la 31 o quella più 32. La salvata in realtà era la traversa, però sul calcio d'angolo loro sono più ribelli. Esatto. La cripta 32. All'interno della cripta 32 ci sono due alcove. Sopra queste alcove sono scolpite le seguenti parole: non passate da questi portali, voi stolti mortali. Oh, no, ho fatto la rima. E quindi Patk compare qua. Ok, Race, sei dentro la tomba. Spingo. Che palle, rega. Ush. 12. Da quale cazzo era? 14. No, non basta. Athanas. Tranquillo, adesso ti chiedo chi è. Continua a fare quello che mi ha detto Vardistron. Bravo cagnolino. Arrivi alla non mi ricordo, sì, la porta era aperta, quindi hai la possibilità di entrare nella cripta e buttarti di sotto nell'oscurità. Sì, entro nella cripta ma non mi butto di sotto. Ok. Ma cosa c'è? Vedi in fondo la che va giù e senti provenire rumori di lotta e grugniti di un nano arrabbiato. Faccio il tifo, inizio a fare il tifo per Garrosh, però il microfono non mi prende gli applausi. Sarà quando esce non vede niente. Ah no, alla lama di alla spada di luce. Sfortuna. Io preparo la corda e mi avvicino con l'idea di buttarla giù. Ok, come 2-0? 2-0 per chi? Stavate subendo. Vabbè, alla fine avete senti. Garrosh. Ho 3 minuti di recupero, secondo volta 6 esimi. Arnau, tu dici. E continua a attaccare il Bright. Però mentre lo faccio posso urlare: chi c'è dentro la bara? Sì, puoi farlo. Fare una domanda a lui è divertente. No, 22, continua a fare 14. Ieri mattina mi sono svegliato. Primo attacco 8 danni, secondo 8. Attacco è critico. Attenzione. Oh. Tiro 3 di 6, perché ho critico brutale. Più 4. Tirato anche benino, 16 danni. 16, muore. Sempre magici. Oh. Così allora con calma urlerò: chi c'è dentro la bara? Bene. Nessuno è nella bara. Bara, quale bara? Mentre le tue parole risuonano, cos'è una bara? Evasivo. Nelle pareti della cripta, cominci a sentire uno strano rumore intorno a te. Dopo che hai ucciso il Wright, vedi, noti che alcuni gruppi di ossa cominciano a accorparsi e allacciarsi insieme l'una con le altre. La spuntano fuori 6 scheletri. Allora, lo scheletro. Ah, cioè puoi tirare punti ferita. Ah, è vero, hai dei punti ferita temporanei che avevi già da prima, in realtà. E li avevo già, quindi non mi ricordo quanti erano, però. Sì, ma ne hai persi 4, quindi. Però non so come funziona. Tutte le volte li puoi ritirare, prendi quelli il maggiore però, di quello che hai. Esatto, però se ne tu adesso ne hai 6, se fai più di 6 prendi quello il maggiore. Ah, ok, allora 9. 9. Hai 9 PF temporanei. Questo era Garrosh che uccideva Wright. Bardistran. E cosa possiamo fare? Non vediamo mica loro. Tu hai abbastanza movimento per arrivare alla porta della cripta e volendo poi decidere se cominciare a calarti in basso o buttarti sotto. Dove lo devo fare per forza? Oppure rimanere sul ciglio. Sul ciglio io vedo sotto loro che fanno questo, giusto? Sotto vedi buio. Ah. E senti però i rumori di lotta e dei rumori di come tanti piccoli bastoncini ossicini che cozzano. Posso tra di loro. Posso calare una corda? Sì, la stava preparando già Sfortuna, puoi aiutarlo. Ah, ok, scusate, mi sono perso l'ultimo. Calate la corda. Urlo sotto: Garrosh, Race, se siete lì, afferrate la corda. Race, tocca a te. Senti, allora, uno che ti chiede... Però chi io c'è... la urlo molto forte. E io rispondo: chi c'è una bara? Io dico: non c'è nessuna bara. E poi senti qualcuno che grida: prendete la corda. E neanche nessuna corda. Tiro un di 20. 20 di dado. Non è vero. No, ho fatto 3 meno 1, meno 2, meno 1, 2. Toc. Ok. Vabbè, si fa male, dai, dagli un punto. Perché, ho toccato, due volte il dado su Roll20. La prima è che quello che è uscito è 3, il secondo è 20 di dado, utile. No, non si fa male, non è, sarebbe impossibile. Beh, essendo la terza volta che ci prova, non ha vantaggio. No, anzi, svantaggio, no. Perché sono più stanco. Esatto. Non ci ho pensato questa cosa. Allora, scheletro qua. Ok. C'è una foto con mezza faccia di Arci che esce in un angolo. Abbiamo detto 6 scheletri, giusto? Comunque sì. La tua foto è venuta male, quindi non la sviluppo. No. Qual succede? È la tua foto? Allora, no. Quella di Venzi invece è venuta da Dio. Quella dove indica no. La cosa. No, quello dove indica cosa è allora. Tantissima roba. Gli scheletri brandiscono delle armi arrugginite, delle spade corte. Non vedi Garrosh perché sei l'unico che vede lì. Armi a distanza. I 6 scheletri ti accerchiano e ti attaccano con le loro spade arrugginite. 19 hai detto? Sì. 2 ti colpiscono e ti infliggono ben kill. Total party kill degli scheletrini. Sì, ti infliggono 11 danni perforanti, che se rinira di mezzi, ma non mi ricordo questa cosa. No, non lo so. Ok. Quindi tu avevi 9 temporanei, quindi alla fine sono 2 danni. Esatto. Athanas. Perché essere in ira se puoi morire? Quanti scheletri ci sono? Non lo sai. Ah, non lo vedo. Se quanti scheletri ci sono? Urlo da sopra. Non ci sono scheletri. effettivamente è vero dal suo punto di vista. C'è una scatola, non ci sono scheletri. Vabbè, no, io urlo tutto bene? Sì. Una meraviglia. Allora, ho visto. Allora aspetto che gli altri puttano giù la corda. La ok, risposta è sì. Prepari un'azione. Preparo l'azione per aiutarli a tirarli su. Sì. Sfortuna. Tiriamo giù la corda. Tiri giù la corda. Garrosh. Tenendone un lato. Vedi la corda di distanze, che scende giù. Di disposizione è la bara dove ho sentito, ho riconosciuto la voce di... Sì, hai riconosciuto la voce che diceva... cos'è che diceva? Non c'è nessuna bara. Bara. Non c'è nessuna bara. Esatto. Allora, come distante, becco attacchi... Cioè non becco tipo 6 attacchi di opportunità se provo allora. A aiutarla a uscire. Tira un dado percentuale. Ok, brutta storia. Total party kill no, ma per me sì. Ma va là. Se prendi più salute uccidendone uno che dei danni che ti fanno. Esatto. Sì, quello è vero. 21. 21. Per raggiungere la bara che da cui senti la voce devi uscire dall'area di minaccia di 4 scheletri su 6. Va bene, comincio a picchiare. E nel frattempo urlo. Ah, e vedi la corda che penzola dal tunnel. Ottimo, usate la corda per scendere e comincio a picchiare. Ma 18... perché avete detto che va tutto bene? Non gli rispondo, comincio a picchiare. Classe armatura 13. Ah, ok, quindi colpisco il primo. 10 danni. 10 danni. Non muore? No, non dai, muore. 13 PF. Va bene. Allora, anche col secondo colpisco sono altri 9 danni. Quindi muore. Tiro i 2 di 6 temporanei e sono 10. Oh. vedi che è vero che va tutto bene. Vardistran, senti questo dialogo, questo scambio di informazioni abbastanza surreale, ma ormai ci sei abituato. Quindi loro sono, ecco la corda, bene, usatela per scendere. Esatto. E senti, non c'è nessuna corda. Rumore di combattimento provenire dal fondo. Io dico tranquillo, Vardistran, hanno detto che va tutto bene. Questo è vero. Allora, non ho mai detto che va tutto bene. Quanto detto. Ci mettevo? Non è neanche negato, quindi con la corda è un movimento a scendere. Sì, ma la corda la tiene sfortuna, sbaglio. Sì, non ti fidi? La può assicurare alla lastra che faceva la lapide che chiudeva la catacomba. Che gli dèi mi proteggano! E vado giù con la corda. Mm-hmm. Faccio un athletics. Con la corda, nel senso tirando tra dietro? Esatto. Questo dipenderà immagino dal mio athletics. No, non hai bisogno di una prova. Quindi sono giù. Comunque, sei giù. Ricordati che non ci vedi. No, mi porto dietro una torcia, ovviamente. Che credo di avere, cioè credo che noi in realtà siamo illuminati da un po'. Sì, tu hai sempre detto che ce l'avevi, però meglio sottolinearlo. Bravo. E quindi cosa vedo? Vedi cinque scheletri che stanno circondando Garrosh, ma lui imperterrito. Morto. E lui imperterrito continua a combattere come un leone. Esatto. È una voce che dice senza... che non c'è niente. Beh, lascio, getto la testa. Aiutatemi! Getto la sta torcia. Andando tutto bene! Sono a casa! Metto la torcia da un punto così da poter attaccare. Posso attaccare già? Sono a 10 piedi in realtà da te. Se hai un giavellotto da lanciargli, lo puoi fare. Non credo. Gli posso lanciare la torcia, però. Puoi lanciargli la torcia. Cioè, i giavellotti non avevo detto che li prendevo, quindi chissà. Dove sono finiti? Gli lancio la torcia. Mm-hmm. Peccato, stava per diventare un mega tiro, invece una merda. È un 8. 8, la torcia gli manca e finisce in mezzo alla stanza. Ma per fortuna non si spegne. Sì, rimane accesa. Race. Spingo. Vai. Madonna, è solo il quinto turno. La prossima volta fai tu il riassunto. D'altronde lo zio non ti ha insegnato come si fa. Esatto. 10? 8 totale, ovviamente. Sì, sì, chiaro. Ok. Beh, è un buon... Ma puoi tirare più di 10 se vuoi col dado. Ho tirato 12 prima. Ah, già. Due scheletri vengono attirati dal paladino. Gli scheletri. Esatto. Si girano per andarlo ad attaccare. Garrosh è un attacco di opportunità. Sì. No, 11. Che sfiga. Manco. Allora, gli scheletri arrivano addosso a Garrosh, a Vardistran. Una quantità di classe armatura, 2, 3, 4, via. Interessante. Allora, 20. 20? Stai vieni scherzando? Viene colpito da tutti. Sì, beh, ha rubato l'armatura dei morti. Cos'era quella cosa che ci hai fatto? Rimettilo, Katta? L'ho visto. No, l'ho chiusa, era una pagina Facebook che avevo lasciato aperta. Adesso l'ho chiusa, non la posso riaprire. Ah. Era tipo un riccio di mare, credo. Vabbè. Quindi, 20... È andato in giro... Cioè, ti puoi riaprirla? Fai tasto destro e riapri scheda chiusa. Hai ragione. Dovrebbe funzionare. Vezia è andato in giro ad aprire tutte le tombe per avere un'armatura magica. Adesso ha 20 di classe armatura. Però non lo vedete lo stesso perché li apre in un'altra finestra. Allora, guardi, strano, il primo ti manca nonostante abbia fatto un buon tiro. Il secondo però fa critico. Vabbè, contro i critici non credo di avere nulla per potermi salvare, quindi vai. E quanto cazzo fa sto classico critico? Sono 9 danni. Okay. E poi messi, però gli ultimi 3 che sono rimasti su Garrosh lo attaccano e nessuno fa più di 8 con il tiro del dado. Direi che mi manca. Che vergogna. Atanas, come si è messi Giulio? Come prima, ma meno 10 danni più o meno. Grazie. Non bene, cioè tu in realtà hai 99. Va bene, dai. Senza contare i temporanei. Ma allora va bene per ora. Atanas, si allontani dal morire, raga. Non so, a me hanno detto che va tutto bene sotto. Ah, vabbè. Hai visto Vardis Transcendere che viene attaccato dagli scheletri. Vardis Transcendere, devi scendere anche tu, no? Esatto. Puoi buttarti sugli scheletri che stanno attaccando. Sì, faccio un superhero landing. Bene. Muori. Ah, no, aspetta, quanto è alto? Facciamo così. È alto... 9 sti cazzi, faccio un superhero landing. 40 piedi, 40 piedi. È alto. Ah, no, ti ha risposto, è alto. Ti ha risposto. Faccio mi lancio sugli scheletri. Vai Athletics. Che schifo, 18. 18. Ok, prova ad attaccarne uno. Squid Game. Ah, perché minchia, io sono arrivato adesso. Questa voi l'avrete commentata. Benvenuto, show. Non li ho visti i nomi, non li vedo fissi come voi. Fatto 18, sono, sempre. Sono tipo in una bara, okay. Da senior. Riesci a fare un plunging attack, quindi a buttarti e a usare lo scheletro come atterraggio e scaricare addosso la forza dell'impatto, almeno in parte. Quindi adesso, appena ho finito con i teschi, ti metto un fiocco rosa, tranquillo. Tu prendi solo 7 danni da caduta. Grazie. E aggiungi lo stesso numero ai danni che fai allo scheletro. Anche come sigla iniziale, invece quel ranto lo poteva ammettere. Quindi tiro la spada e aggiungo questi più la mia forza. Perfetto, 1, però più 7, più 15... Ah, poi è sempre magica questa spada. 16. Muore. Me la scordo sempre più uno. Atterri sullo scheletro polverizzandolo. Sfortuna. Mi faccio partire la musica di Deadpool. Riesco ad affacciarmi, vedere la gente con cui sono ingaggiati. Sì, riesci da dove sei, riesci a vedere Vardistran, Atanas e uno scheletro. Sparo contro lo scheletro. A 40 piedi. Sotto di te a 40 piedi, sì, Eldritch Blast a 60. Sì, è un sacco. Mi tiro Eldritch Blast, ne faccio 2, dai. Oh, 27 e 28. che non ti sforzi troppo, mi raccomando. 27 e 28. Colpisce. Faccio 26 danni. Muore 2 volte. Muore, rinasce, muore di nuovo. Non avete più scheletri. Vabbè, il secondo lo puoi deviare su Vardstron, se vuoi. Garrosh. Non credo che il primo basti per uccidere. Non ci sono più scheletri, quindi? Addosso agli altri 2. Tu ne hai ancora 3 addosso. Ah, ok, mi pareva. Allora continua a smazzolare. Oh, catta, non fai vedere i messaggi, però. I messaggi? Ah, li avevo chiusi per farvi vedere più... Allora, col primo ho fatto fumble, col secondo sono 9 danni. Ah. Una roba merda, sei carichissimo, porca puttana. Sì, stasera Vardistran. 4, 2, 3, 1, 2, 1, 1. I scheletri che avevi ingaggiato sono morti, rimangono i 3 addosso a Garrosh. E uno è mezzo morto. Vabbè, sì, che esatto. Non si capisce molto dagli scheletri se uno scheletro sta per ora ne ha... Ne ha 3 addosso lui. 3. E tu nessuno. Okay. E attacco uno di questi. Quello mezzo morto. Ma sono già morti, sono scheletri. Faccio 22 a colpire. Mezzo vivo. colpito. Esatto. Sono 17 danni. Morto. Posso attaccare un altro, no? Sì. Questa volta è 23 a colpire. Colpito. Ah, due, ritiriamolo. Ah, peggio. sono 13 danni. Minchia, lo ammazzi lo stesso. Hai un più 12 ai danni. Ho un più 7. 5, no, era 2 di 6, uno era un 5, l'altro era il 2, ritirato il 2, era un 1. Ah, ecco, mi sembrava strano. Sì, rimane uno scheletro solo e tocca a Race. Che esce, tutto a dormire. Arcane Trickster. 4. Sentite di nuovo cozzare contro. Scusa, ma con mano magica non puoi tipo, non so, togli il chiodi, stullarti il barbagallo, cosa vuoi fare? Da dentro la... è dentro una scatola di legno. Di rega, anzi, di chiodi, tipo. Sentite urlare, rega, va tutto bene, andatevene. Non serve una mano. Sei evasivo in teoria, cioè tipo dovresti dire, cioè quando si dice Ray, sei tu, tipo. Dovrebbe essere bravo a evadere, vuoi dire. Invece... pensate che sia curioso trovarsi in un luogo oscuro. Quello è quando gli pongono delle domande. Okay. Vabbè. Questo invece, Vez, è sarcasmo. Sarebbe ancora più sarcastico. Vardistran. Lo scheletro ti attacca e ti manca. Athanas. Posso prendere a pugni? Sì. Cosa? Ma chi? Chi? Lo scheletro. Leo. No, lo scheletro. È la giusta domanda. Chi vuoi prendere a pugni? Allora. L'attacco senza armi quant'è? È un di 4. No, è, credo è un, se non hai base è 1 più la tua forza. Che cazzo. Ma perché? Beh, ci sta in realtà per dimostrare che è forte. Io metto via le spade, guardo Garrosh e dico, si fa così. Armored Strike. Cioè, ho appena ucciso un Bright e 3-4 scheletri, comunque. Sono 8 sessioni che uccido un Bright. Ok. Ho fatto per colpire 26, 27 e 26. Colpito. Quindi prendendo, la pugni sono 1 più 7 di forza 8, 8 per 3, 24 danni. Lo annichilisce a cazzotti. E l'ultimo scheletro viene polverizzato così. Non uso più alcuna lama. Da qui come finale prendo, cioè con la mano tipo gli prendo il teschio, glielo strappo e lo butto a terra tipo touchdown. E poi fai tipo, vai da Vardistan e fate petto torce, grande. solo che io ho 27 in forza. Ok, quindi ho 25, non 27. Ci sarebbe qualcuno in una bar. Ok, se sfortuna non vuol fare cose particolari, quelli sotto chiedo se è tutto a posto. Sì, sì, non hai sentito anche prima. Sì. Ok. Comunque prego, ragazzi. Bene, quindi quelli di sotto che cosa fanno? Io continuo a bussare, faccio tipo... Vabbè, libero Race. Ok, prova di forza. Queste sono le foto 26. In cui c'è un pasticcino. Okay. Tipo apri la porta come se fosse, non so, quelle del supermercato che si aprono quando passi. Così, esatto, tipo movimento Jedi. E dentro c'è Race. E Race il coperchio si apre. Oh, rega, grazie di avermi salvato. Non c'è di che. Bene. Quella della brioche è stupenda. Cosa? La brioche? Capolavoro. Sono due persone che capiscono che gli fanno le foto. Rega, dovreste mangiarla, cioè guardate, dovreste mangiarla. Io provavo a offrirla, rega, però sembrava che vero, provando a avvelenarmi. Tipo quando col bastoncino tocchi qualcosa che, per vedere la consistenza. Va bene. Esatto. Sì, no, ma erano delle brioche enormi, cazzo. Sì, no, erano okay. Veramente importanti. Ho visto adesso quella con Hulk. E anche il personaggio della Marvel. Ah, Va bene. Liberate Race dalla tomba. E poi... cosa fate? E non scusate, non avete commentato quella in cui c'è Sceo che vi indica la strada e siete tutti lì che pendete le sue labbra da dietro, però lei indica, quella dove guarda il cellulare. Sì, c'è Sceo che sta dicendo dovete passare di qua e di qua e tutti guidaci. In realtà finiva che non mi ascoltava nessuno e dopo dovevo dire a destra, a sinistra, a di là. Grande classico. Bene. Quindi? Avete visto Rip GDR... ah no. Esatto. Tornate su, state lì. Che torniamo su. No, direi che torniamo su. Vogliamo aprire altre bare? Ma nel dubbio apriamo tutte le bare, così... Esce un Bright ogni bara. Provato. Allora niente. Un Bright e 6 scheletri ogni bara, potenzialmente. Quindi tornerei su. Okay. È il momento, puntiamo la scala a chiocciola. Bene. In altre campagne questa sarebbe stata tutta exp. È vero, vedi che c'è un motivo per cui c'è qui la parola okay. Beffa. Esatto. Qui siamo in basso, oltre livello al... basso. Sì. Esattamente. Ah, eccovi qua. Scusa, facciamo così, di default passiamo tutti, riusciamo a scalare, tranne Race, lui dovrebbe tirare. No, c'è d'accordo. No, esatto, riesce a scalare, vi dà la puzza. Culo. Esatto, sono già su io. Va bene, allora. Bene. No, ma stavolta voglio un Vi dirigete verso K18, la scala a chiocciola che porta alla sala della grande cappella del castello. Ha detto cappella. Esatto. Mentre percorrete gli scalini verso l'alto, sentite il pesante rumore della pioggia battere contro le mura del castello. La imperversa e una strana musica riempie l'aria. Oh, eccolo. Però posso dire che non è molto da matrimonio, ma più da tipo rito satanico. Cosa che... Questa è un'ottima osservazione. E arrivate al muretto che avete, in cui avete aperto un passaggio. E... Io però mentre iniziamo a salire inizia a piacermi. Inizia a canticchiare anche tu. Inizia a canticchiarla anch'io. E adesso devo trovare. Inizia a fare tipo oh, riga, chissà se vendono il CD, mi piace. Aspetta. Fermo. Quindi noi stiamo risalendo per andare da strada, giusto? Giusto. Sì. E sentiamo questa musica. Giusto. Sono solo dei vocalizzi, sono delle parole. Ok. Ma prima di questo mi metto davanti a loro e dico: non temete, questa è l'ultima parte del nostro viaggio, ma è quella che darà un senso a tutto questo. Andiamo e distruggiamo per sempre il male che alberga in questo luogo, oppure speriamo in un ultimo tentativo eroico. Con me! Tutto figo, la musica di sottofondo però rovina tutto. Allora, no, sono lì a seguire il canto. Queste terribili obrobri che sentire, le vostre orecchie sentiranno. È tipo scena di Wolf of Wall Street. La vostra mano ferma. La vostra mente salda, fredda. Il ma voi come siete messi? Saldo. Nulla si potrà frapporre fra noi e il male ora. Merda, Marco, siamo messi di merda. Quindi mi prendo 10 minuti per fare anch'io il discorsino dopo questo. Ah, ti metti anche tu a fare e ora lascerò la parola a un altro ospite, il signor Sfortuna. Un applauso per il signor Sfortuna. Bravo. Ah, no, Giulio, che non può applaudire. Esatto, perché questo pane. Allora io faccio da sottofondo a Vez. Ma perché ha il moncherino Vez, ispirazione per... usando ma per... io mi immagino tipo, tu vorresti fare tipo come dei canti gospel tipo nella chiesa, tipo, no? Tipo alleluia, tipo alleluia, tipo sì, lo spirito è saldo. Uso minor illusion per fare rumori in sottofondo nel nostro cuore, per fare il rimbombo della voce, cosa del genere, la luce del nostro cuore. Quello è un canto da stadio, che vabbè, ok. No, va bene. Lo stadio è... Stra... Ci senti? Pezzo di me. Poniglio, alza la voce. Alza la voce. E poi verso Giulio. Non si sente, non si sente niente. Allora, vi faccio ritornare alla vostra dimensione. Lo metterò però esatto a una. Ottimo. Per la diretta sparalo altissimo e abbassa noi, così la gente si gode la diretta. L'ho abbassato, anche perché quello della diretta vuol dire fare il mio, capito? Quindi, perfetto. Cioè, il mio, io dovrei sentire sento quello della diretta, ovviamente. Allora, ma si è bloccati come immagine, però no, quindi non ho capito. Marco, ha un qualche cosa la tua roba? Io volevo usare Inspiring Leader. Sì, usalo, ma non ho tanto carisma personalmente, quindi volevo farlo come... Cioè, ok, nel personaggio sì, ma in realtà non so fare un discorso, quindi volevo farlo in collaborazione con Vez. Ah, capito, quindi fai quello che ha detto lui! Quello che ha detto lui, ma prendete vita in più! Ho capito. Vabbè, allora facciamo così, Marco, facciamo così. È una cosa di famiglia. Io dico tipo... Sì, non è vero, i personaggi gli fanno i discorsi. Il vostro, sì, sì, però orecchie... tu fai quello che fa Vardistran, lui, fa, lui dice quello che dice Vardistran, è una cosa... Perché lui... Perché non dovete ascoltare questi orridi e terribili suoni. E mentre la io sono musica, lì, la musica della verità, la musica della giustizia suonerà più alta e più forte. E allora tu intanto cominci a suonare. Va bene, poi si possono, tirare... fare, due, si possono fare due bardi. Rimetto tipo quello di Marco e lo alzo rispetto a questo. Ah, due bardi. No, non si può. Non lo so. No. E comunque sì, puoi usare il modificatore di Vardistran per il tuo tiro di ispirare. Non è un tiro, è un fisso, un valore fisso. È fisso livello più carisma. Ah sì, puoi usare il carisma di Vardistran. Ma è più alto il mio. Sì. E allora tiro, non ho capito bene. Ormai è troppo tardi, usi quello. Ho più 3. No, scherzo. Quindi, man mano che salite alla gradini, fine di tutto questo 13. È 13 cosa? Punti verità temporale. 13 Pietro, 13. Oh, bene, adesso che quindi siete grossi e grassi. Ah, ma rega, io ho 13, ero full comunque. Anch'io ero full. Io ho anche i miei 13 punti verità temporanei dallo scorso speech. Infatti. No, sono temporanee queste, quindi sono in aggiunta ai tuoi. Noi come siamo messi, Giulio? Tu sei a 59, io sono a 50. Sì, ma io, Katia, non avevo neanche mai cancellato i 13 di prima del riposo. Ah, quindi sono sempre quelli. Vabbè, e Carlo c'è a 99 e abbiamo questi 13 in più. Io però in realtà ho un D10 da poter recuperare. Io, Giulio, ho anche i 10 miei. ma io l'ho silenziata. Perché mi state torturando. Togliete. Capito, Giulio? Lo tolgo io. No, prendi sempre il maggiore. Sì, l'ultimo che ho fatto era 10. Ma adesso ne hai 13, quindi ne hai 13. I suoi si vanno a sovrapporre i miei, cioè non posso sommarli. Prendi più alto. Prendi più alto. Nei 13. Pensavo fossero due cose diverse che si sommavano. ma io avevo promesso a Shio di fargli una foto, aspetta. Adesso? No. Cioè di fare quella foto lì sulle magliette, aspetta un attimo. Ma anche tu. Pensa a qualcuno che tipo non ci ha mai seguito stasera, dice ma andiamo a vedere, si collega e siamo proprio vabbè. Se ha visto Dune, però dovrebbe riconoscere. Capisci? Che solo quella scena lì ha una fan base e basta, che non c'entra con lui, è un'altra cosa. Lo recupero. È al cinema. Adesso. Come si mette una canzone da su cosa? Devi metterci il link, ma prima scriverci sta roba qua. No, vabbè, non voglio. Troppo sbatto, Katta, grazie. Gentilissimo, però. Vabbè, squisito. Basta che copi quello che c'è scritto nelle righe sopra. Squisito. Grazie. Squisitissimo. Quindi, arriviamo al momento clou. Mentre salite le scale, la musica si fa più forte. Davanti a voi cominciate a scorgere la sala gremita di ogni tipo di gente. Cominciate a sentire anche le parole di una specie di officiante, di sacerdote, dalla quale provengono anche questi suoni gutturali. Tra queste parole riconoscete in un attimo solenne che viene pronunciata questa frase. Prima di andare su, per non saper leggere né scrivere, recupero un D10, così uso. Ok, 8 più il mio livello 9, 17. Ok, scusa, adesso il sacerdote può interrompere. La frase che sentite è la seguente: se qualcuno è contrario, parli ora o taccia per sempre. Io. Cos'è questo? Aspetta. Devo andare in bardo per capire che cos'è. Blitzkrieg dei Death Star. È la colonna sonora di Doom. Inizio a suonare. Questa è la scena dell'ingresso nella sala. Bellissimo. Capolavoro. Quindi entriamo nella sala. Mentre entrate sentite questa frase. Cosa vediamo però? Aspetta. La sala è gremita, c'è una folla di gente che sta assistendo a questa funzione e in fondo dietro a questa folla scorgete l'altare. Ci sono alcune figure intorno e c'è questa figura molto solenne che sta officiando la cerimonia. Ma ci sono gli sposi? Sì, vedete di spalle il conte e una sposa. E avvolta in un abito nuziale e coperta dal velo di colore rosso sangue. Allora Allora, sentite questa frase. E allora io dico: dici? Tutta la Varovia libera è contraria a questa viore, a questa e a tutte le altre follie e defandezze compiute in questi anni su questo povero regno. Ma oggi, io, Bart, sì, oggi è il giorno del giudizio. Oggi noi combattiamo per un'ultima volta. Ah, siamo al Terminator, The Judgment Day. Chi è bene con me non esiti. La luce è con noi. Oggi, fino alla fine. Io mi? Per Frodo. Ah no. Io mi? Oppongo. Io mi o? Io mi oppongo. Finalmente. Io mi oppongo. Dopo e mesi e mesi. Porca Giuda. Allo scoccare dell'ora, no, dal momento in cui queste parole vengono pronunciate dal prode paladino, una luce, tutti morti. Una insperata luce comincia a trapelare dalle vetrate della parete ovest, una luce che era stata spenta mesi prima, mesi fra, no, qualche giorno fa in realtà, ma mesi in tempo reale. Qualche ora fa. Qualche ora fa. Perché è scesa la notte e adesso esatto. Ah, riguadagniamo i nostri bonus. Riguadagnate il bonus della luce dell'ordine del drago d'argento. Bastava dire mi oppongo. Sì, senza uccidere tutto l'universo. Io mi oppongo. Ma era in cosa serio, esatto. Quindi più uno alla classe armatura e tiri salvezza. Esatto. Comunque scusa Giulio, non mi ricordo quanti punti ferita avevo io, scusami. 59 anche con i 13 nuovi. No, no, senza i 13 temporanei. Ah, ok, dai. Allora, sì, faccio schifo. Allora, dai. Cioè, se Arci si potesse curare, in realtà sarebbe al top. Sì, più una classe armatura e tiri salvezza. Anche tiri salvezza, ricordate. Sì, sì. Ok. Dove cazzo è? Qui. Dovresti avanzare col medaglione tipo fiala di Galadriel. Figo. Allora. Il mio vecchio medaglione, di nuovo. No, ma io intendevo quello forte. No? No, però quello forte in realtà lo devo usare dopo, mi sa. Sì, contro Strad. Ma contro Strad lo uso dopo, se va bene, e se invece va male lo uso poco. Nel senso che io in teoria ho le cariche, no? Uh-huh. Ho 10 cariche, solo che per fargli la mega scarica quella vale 5, quindi o adesso la uso subito. No, poi ne hai 8 adesso. Sì, adesso ne ho 8, esatto, quindi o la uso subito, è bella, oppure la uso quando abbiamo visto per se ma... Dovesse... ma quanto dura la luce del medaglione? Quanto tempo fa luce solare super figa? Non me lo ricordo. Qualche minuto sicuro, però non poco. Dovrei aver scritto la descrizione nella chat. Sì, ci guardo. Non credo però che abbiamo tempo di usarla eventualmente anche dopo, se lo spaziamo. I symbol, bla bla bla. Però sì, forse è l'unica a usarla e poi dopo ci pensiamo dopo. 10 minuti. E lui quanto ci mette a Ah, ma hai messo la foto del Team Rocket? Fighissimo. Dov'è la foto del Team Rocket? Nella chat generale. Generale. Ah, Team Rocket parte... a Lucca Comics. Cazzo è questa roba. Ok. Allora. Sì, avrei potuto prepararla prima questa stanza, visto che è complicatissimo. Va bene. Mentre aggiornate le vostre schede, un bagliore ancora più luminoso. No. Non lo sento dire da... Era ironica, era una cosa ironica. Ah, ok, scusate per un nel attimo. Senso, per aggiungere di nuovo il bonus della luce. Ah. Mentre aggiornate le vostre schede... L'ultimo confetto del matrimonio di Katta. Ce ne ho altri, se vuoi te li porto. Ah, sì? Ok, grazie. Prego. E non lo sentiremo masticare. Niente, non lo sentiamo masticare. Che figata. Comunque, da una delle vetrate farò il reso. Non sono soddisfatto del prodotto. Non fa abbastanza rumore. Una luce più intensa illumina i vetri colorati, che un istante successivo esplodono in mille frantumi, quando una figura angelica fa irruzione curaci. Dall'esterno. È un piccione. Esatto. È un piccione, è un'aquila, un aereo. A proposito di piccioni, dietro di lui è solo Jordi, il cugino di Strad, che vola. Ho perso qualcosa. Ma dei corvi non si vede nessuno. Solo non si vedono i super corvi. Allora, dietro di lui fanno irruzione dalla vetrata rotta uno stormo di corvi, di uccellacci neri come la notte. Bene. Ma amici o nemici gli uccellacci neri? Sono chi lo sa. Prova a dire Mello. Lo scoprirete. Allora. Vabbè, non sono non morti, questo ce lo puoi dire. No, non sono non morti. Non sono non, quindi, non morti. Il conte si gira verso di voi. Oh, verso Vardistra. Verso Vardistra. E il suo portamento è sempre regale e mai scomposto. Che uomo. Sentiamo ridere da qua. E pronuncia le seguenti parole: sia fatto il vostro volere, nobili ospiti, poiché questo è il destino che voi stessi avete deciso di avverare. Si è immediatamente levato il patto di non aggressione e vi siano grande rimossi i diritti dell'ospite da questa dimora. No, perché? Che abbiamo fatto? Non era successo. E ora che avvenga in questo luogo la vostra rovina. Ok. E poi urla TPK. C'è abbastanza carne al fuoco. La folla presente all'interno di questo bellissimo tratto molto artistico, costituita da ogni tipo di invitato, dai vecchi nobili a ovviamente tutti i vari vistani e gli sgherri. Ciccione, cosa mangia questo? E gli sgherri del conte, o è anche qualche vostro sparuto alleato, ovviamente gli infiltrati di Martinkov, che cercano, come dire, di nascondersi nella confusione. E il panico è generale, gente che corre da tutte le parti e all'atto pratico rende difficile attraversare questa stanza in mezzo a loro. Terreno accidentato. Vabbè, ha già provato, sì, cose simili in un altro, tra l'altro, luogo di culto. Giulio li sposta lui, non è un problema. A spadate, no? Non è problema. Sa già come fare, insomma. Sì, sì. Mi devo salvare. Bravo. Ma li dobbiamo salvare sta gente, o chi se ne frega se sono collaterali? Tanto no. ma siamo noi primi. Li salvo io. Ma siamo noi primi a non volerci più salvare a questo punto. Basta. Diamo fuoco a tutto. Qua il problema è se qualcuno salva noi. Temo. C'è una cosa che non mi ricordo. Intanto voi pensate a cosa fare. Creare iniziativa. Allora, mi scusami. A parte Giulio, quello. Se ce l'hai sotto, mi lo rileggi il medaglione. Come cosa fa quello lì? Allora, ha 10 cariche che devono essere utilizzate, bla bla. Come un'azione puoi spendere una carica in presenza del simbolo sacro per stillarlo di, per farlo brillare di potere sacro. I vampiri e progeni vampiri che in 30 piedi del simbolo sacro devono fare un tiro salvezza sulla saggezza con DC 15. Se falliscono sono paralizzate, sì, per un minuto. Ok, è quella che vale 1. Quella che vale 3, abbiamo stabilito che non la facevo. Quella che vale 3 è Turn Undead, e come un'azione tu puoi spendere 5 cariche mentre mostri il simbolo sacro per farlo brillare in maniera luminosa in un raggio di 30 piedi e di luce fioca per addizionali 30 piedi. La luce è luce solare e dura per 10 minuti finché tu non decidi di interrompere l'effetto. È quello che devi spammare contro strada. Vedi Giulio, il microfono che usa Vezza è migliore, si sente tutto. Ma quello che, cioè, se io gli sparo così, che cosa gli succede? Niente di che, in realtà. No, è colpito da luce solare, quindi uno va vampiri. Aspetta. Da gaming, luce solare. In teoria non lo sappiamo, Giulio, però. Vampire D&D. Beh, sì che lo sappiamo, combattiamo vampiri da... Beh, sì, però la luce solare qui in Barovia non c'è mai stata, quindi non sappiamo cosa gli... Però ci siamo informati. Abbiamo letto Baropedia. No, non so se nei libri della biblioteca... Sì, sappiamo le debolezze dei vampiri. Ce l'ha letto K anche. Sì, Exatander ce li ha... Sì, Exatander ne abbiamo appreso. Dai, lo sai da lì, lo sai dal tomo di Strad che adesso ha... Io il diario, ecco, è quello, fortuna, direi. Fortuna. Ok, allora, ma io non come il vampire Sunlight. Ok, il vampiro prende 20 danni radianti quando inizia il suo turno nella luce solare. Mentre in luce solare ha svantaggio a tutti gli attacchi e gli abilità. Okay, direi che lo uso. Beh sì, ma la puoi spostare la luce? È un raggio di 30 piedi più altri 30 piedi. Ok. 60 piedi. 30 di luce intensa e 30 di luce fioca. Esce dal medaglione, quindi segue il medaglione, dico. Sì, non è che segue il medaglione. Okay. Non devo fare concentrazione. No. Ah... erano dei white, non erano dei fantasmi. Ok. Allora, va bene. tiriamo delle iniziative. Okay. Se avremmo potuto uccidere i Wasp per non ritrovarci di qui. Uccidere cosa? I Riot di prima per non ritrovarci di qui adesso? Chissà. Oh, ho fatto 20 di dado, 22. Uh-huh. Ah, ho fatto un 1 e un 20. Ah, mi tiro con vantaggio. Io tiro, ma se mi chiudi un'altra bara mi incazzo. No, non è possibile. Aspetta. Luca Oddis, non è possibile, sì, non che ti abbia fatto 20. No, infatti non è possibile che ho fatto 20. Ritiro. 8 più 5. Come ritiro? Non è possibile. Non è possibile, raga, cioè non è normale. Ma cosa? Che senso? Dai, contro probabilità che io tiro iniziativa e faccio sempre 20. Io ho fatto 8. Vuol dire ritiro? Dillo. Io ho fatto 3 più 5, 8, lo tengo. Atanas e Sfortuna 8 entrambi di nuovo? Cosa vuol dire? Stalla ha creato basso iniziativa tutta la campagna. Io? Io. Vabbè, ma tu, ma infatti adesso hai tirato alto o basso, Pez? Non l'ho ancora tirato, ma... Non ne ha bisogno. So che già che partirò ultimo. Ti ha fatto meno fino adesso? Infatti 8, quanti 8 avrò tirato io? Anche prima ho tirato 8. Vedi, Vez, tu hai tirato 8. Allora, quindi 8 meno 1, 9 prima con me. No, non ho meno io. Non è meno. Quindi siamo in 3 con 8. Cioè, no, io ho fatto di più di 8. No, il 20 fai piacere a tenerlo, Sal. Io ho fatto 8 più 5. Certo che hai 13. Fatto 20. No, ho fatto 13. Oh, vabbè. Preferisce stare per qualcuno. Credo che sia si possa scegliere, Vez, non lo so. No, cioè, già che okay. Siamo della merda. Allora, vediamo un po'. Dov'è lui? Eccoti qua. Io però ancora non l'ho mostrato il medaglione. Ah, carino. Questo che cazzo è? Oh, figo. Che cosa? Però vedrà l'armatura del fratello. Sì, quello infatti è. Lo turba alquanto. Ah, però. Chi avrebbe detto che Strada avrebbe fatto 20? Da primi 5 tiri. Vabbè, non importa cosa fa lui in iniziativa, tanto le azioni leggendarie. Adesso vi mando la versione con censura. Di cosa? Del robo di Vez. Niente, adesso faccio vedere. Grazie, ho impostato foto profilo, grazie. su WhatsApp, così, cambiare un po'. Condividi. Tanto io aggiorno le foto profilo solo quando faccio una giornata con Salla. Ormai è fisso, sì, sì. Di solito ho il casetto. Guarda, questa versione è censurata, aspetta. Che senso? Adesso vedi? È una cazzata. Ci ho messo 20 minuti per questa stronzata qua. Oddio. Che cosa inquietante. Oh, Come hai fatto a farlo? Praticamente ho duplicato il livello e l'hai depixelato. Depixelato tutto e poi ho cancellato solo la parte della brioche in quello originale, così appare solo pixelato. E non c'era un qualche sito che ti fa censurare le immagini, in cui carichi l'immagine e te lo farò sul telefono? Può darsi. Sì, c'è l'effetto tipo mosaico. Però la vantaggio è che io posso scegliere la grana così. Mm-hmm. Ah, quello sì. Se no, fai come le mammine che mettono l'emoticon sulla faccia dei figli. Esatto. A quale foto stavano facendo riferimento? A quella che è nel gruppo, l'ultima pubblicata nel gruppo. Tu ingrandisci quello che sta indicando Vez. Ah, sì, no. Quindi, ok, questi siete voi. Allora, dove sei tu? Ok. Interno zero. Allora, penso che passerò al resto della sezione a tirare delle iniziative. Ma dai, che cosa? Poi c'è lui. Abbonato a 9. Se tiro un cono di geno, riduce il numero di iniziative che devi tirare. Ti tiro un coro di bestemmie, cosa? Dipende se quelli a cui lo tiri iniziano prima o dopo di te. Quanto sarebbe stato utile Arci, che evocava i mastini e poi scappava. Quindici. Ok. Poi abbiamo... che casino. Quindi... cosa? Chissà che fine ha fatto. Allora, ci sono anche gli elfi. Che palle. Quindi, corvi. Poi abbiamo gli strani. Ah, è la variante. Ok, va bene. Dov'è? Agiscono prima, addirittura. Ok. Poi chi manca? Ok. Gli elfi. Puoi tirare tipo 20 volte insieme. Ma no, vado per gruppi ovviamente, non è che tiro ogni singolo partecipante. E poi c'è il nostro amico. Dove stai? però. Di uno. Ok, ho finito. Spero di sì. Nervorda, Scarif. I cultisti, vabbè, questi vanno in fondo. I Martinkov ci sono. Ok. Due leocorni. Bene. Ok. Idolo. Nella notte di Halloween c'è stato uno a Bologna che si è travestito da autovelox e si è messo sui viali. Ah, era Bologna quella foto. Sì. Come non dimenticare anche loro. Va bene. Dov'è che sono qua? Ok. Io come metterei un sottofondo musicale, raga. Va bene. Ce l'ho. Allora. Ce l'ho. Copy and call. Esatto. Fate voi? Ottimo. Dai, che hai messo? Un tizio col cappuccio che ha un aspetto familiare. No, dicevo la musica. Ah, la musica. Che ricordi? Ah, tra l'altro, Marco, c'è tutto su Netflix. Potremmo finire di vederlo dopo tutti questi anni. Bene. Che abbia inizio. Garrosh, di fronte a te c'è una folla in preda al panico. Cos'è sta malattia, Beth? Si sta impazzendo. Cosa? Quello che hai messo. Cioè, avevo capito due cose stronzate finora. Ma la mia aveva senso, io ti ho censurato il dolcetto perché poteva essere qualsiasi cosa. Da una bomba a mano, una banana, una figa. La bomba termobarica, prego. Ma era Vezzi, io ti giudico per quello che metti sul tavolo? Non mi pare. No, io lo censuro, Vezzi. Ben diverso. Beh, questo è, diciamo, il processo finale di un risultato finale di un processo di giudizio che riporta la sua censura. Ma torniamo al TPK. Non ho capito. Garro. E quindi davanti a una folla di gente che non finisce mai, che occupa le panche, quindi adesso lei in piedi, che era in piedi per il momento solenne. E ora scoppia il panico e gente che corre a destra e a manca, si cozza, qualcuno che fa a botte, che si lancia contro le finestre per scappare. E che è Giulio, che ci vuole dall'altra parte della stanza, appunto, vedi l'altare, i due sposi, un cautizio incappucciato che era quello che saluta, officiava il rito, e poi appunto, accade. Irina come reagisce? È completamente immobile. Ok, comincio a districarmi, a provare a raggiungere il conte. Ok. Azioni fa 30 piedi. Io 35. Arrivi fin qui. Con entrambe? Sì. Ok. Allora, come funziona questa cosa? Eccolo qua. Perché che abbiamo perso una... Ah, sì, ho perso il video. Mio? Così funziona? Sì, sì. Mm-hmm. Ok. Al termine del tuo turno il conte si muove in mezzo alla folla. Vedi che... Oh, la pizza. La pizza. Polizia, no, allora della polizia questa. La termobale che... Lo trovo in FIBA, set dimensions, copy paste, return. Layer, attack layer, la player. Non c'è modo di regolare la trasparenza di un'immagine, vero? In che senso? Assurdo, tu farla traslucida. Ma che cazzo, allora, va bene. Allora. No, non ho idea di come regolare la trasparenza. Non importa. Appunto, quando Garrosh termina il suo movimento, il conte, con grazia divina, si mescola tra la folla e lo perdete momentaneamente di vista. Top. Il nostro lavoro qui è finito. Gli elfi si attivano, che sono i vostri insperati alleati in questo marasma, e vedete che si appropinquano praticamente dove i corvi che sono entrati dalla finestra si stanno dirigendo, cercandosi di ricongiungere. Il vostro amico Iliad, senza pensarci due volte, si getta sul officiante, sul sacerdote. Cominciando a percuoterlo. Il combattimento gli provoca il cappuccio. Di rivelare, che sta indossando, di rivelare l'identità di questo prelato, e vi accorgete essere niente poco di meno che padre Donavich, il vostro caro amico al quale avete massacrato il figlio. Effettivamente questa descrizione è un po' troppo generale. È il prete del primo villaggio che aveva rinchiuso in cantina il figlio che era stato vampirizzato. Quello che avete massacrato il figlio, aspetta, qual era? Il primo. non ci avrò mai beccato. Si vede che io prendo fuori un, tipo una pergamena arrotolata e inizio a srotolarla. Io tiro fuori l'elenco dei nomi. L'elenco di Sant'Andral e gliele faccio vedere. No, non era quello delle reliquie, era l'altro. No, però era nella stessa casa, non nella stessa chiesa, o no? Erano due chiese diverse. No. Ah sì? Le reliquie erano nelle chiese. Beh, lui gliele fa vedere comunque. Sì, sì, va bene, va bene. E, detto ciò, Deva attacca padre Donavich. Notate che... Salla era Vallachi, visto... O sbaglio, no, esatto, era Vallachi l'altro, che quello l'avete già ucciso dopo che era già stato vampirizzato. Sì, esatto. Il Deva ci va giù pesante e spiazza un critico in testa al povero padre Donavich con la sua mazza celestiale, infliggendogli un brozzo di danni, quindi sarebbero questi 4, 7 più 8 di 8, ma non ce li ho 8 di 8, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 22, 94, minchia che savella. 34, 57 radianti tra l'altro. Non ho capito, quindi invece che una TPK questa è la sessione in cui gioca a catta. Praticamente da solo. Tutto quello che di NPC da gestire che non finirò più. Infatti è la TPK, ecco perché mi è corretto. Prossima volta il riassunto lo fa catta. Vabbè, ma non te li puoi gestire in personale. In privato. Bara. In privato, esatto. Adesso noi andiamo a dormire e tu te li, ti ridati tutta la notte. Senso. Però rimani in diretta su YouTube, così poi ce la riguardiamo. Senza stare a tirare, robe varie. Sì, giusto le prime volte, così per avere il feeling, poi dopo... E che catta non tirava da un po', allora deve... Mi stava annoiando, esatto. Ok, il Deva sta combattendo con padre Donavich. Ok, dalla folla spunta Radin. Lo vedete che si dirige verso una delle finestre. Si butta di sotto. Utilizzando la sua... l'avevate già vista durante l'assedio, un piccolo strumento musicale a fiato, e si appropinqua a questa finestra. Esatto. In mezzo alla folla si attivano i vistani, che cominciano a fare casino, tirano fuori i loro coltelli che tenevano nascosti negli stivali o nei loro vestiti e cominciano a fare... Noi le armi abbiamo dovute consegnare. Tipico. Perché loro facevano parte dello staff, mica degli ospiti. Anche noi facciamo parte dello staff. Certo. Ti devo già togliere il bonus della luce. Perdo molto. Garrosh, qualcuno passa e ti tira una coltellata, 4 danni taglienti. Mi piace, stai così a caso. Sì, no, non sono ancora andato in ira perché aspettavo di attaccare. Male, molto male. Bene, un essere oscuro sarà sentire la sua presenza. E sentite uno strano rumore provenire dalle vostre spalle, dal buio delle catacombe. Sentite una moltitudine di ali sbattere e salire dall'interno della muro che è circondato dalla rampa di scale, questo qui. Vabbè. Qua. Da qua dentro si sentono una marea di pipistrelli che volano dal basso verso l'alto. Race. Ok, qualche idea per togliergli sta roba? Quale roba? Non lo so, che non lo vedevo più. Sì, non ho idea di... Cioè le persone, vuoi togliere di mezzo le persone? No, strano. Esatto. Tutta la gente finché non troviamo strano. Si è mischiato alla folla e non lo vediamo. Ah, si è solo mischiato. È entrato. Beh, tu lo puoi percepire. Vabbè, io mi casto... È apparsa Michela, vedremo quando si spegnerà la luce. È un perception tipo, cioè noi lo ritroviamo strano dentro la folla. Vabbè, io mi casto mirror image. Ok. Almeno non lo so, lui ce l'ha descritta così, magari anche in maniera magica, però non da come ce l'ha descritta lui. Allora, vediamo se li trovo. È un raggio o un cono sto coso, Giulio, scusami, è un raggio? Un raggio, raggio. Capito tutto. Vabbè, quindi non gli farò mai dei danni in realtà. Intorno a te per 60 piedi. Eh? Cioè tutte le cose che sono a 60 piedi da te. Eh sì, ma il raggio quanto è grande? 60 piedi. Di larghezza? No, di è il raggio, raggio di un... Non so, ho capito, ma basta. È il raggio di un cerchio passo. Intorno a te. No, beh, è il raggio... Intorno a te. No, un raggio... Ah, ok, è un cerchio. Okay. Sì, il raggio di un cerchio. Ok, è un raggio tipo... No, non è che spari tipo un fulmine. Ok, ok. No, vabbè, allora easy. Se ti metti in mezzo alla stanza e lo fai. Sì, no, easy. Due progenie escono dalla folla, si dirigono minacciose contro di voi e attaccano il primo della fila. E che pare deve essere? Yeah! Serio, sopravvivo in realtà. Hai 20 di armatura, vero? Sì. No, 21! È vero, adesso 21. Tanto hai fatto due critici, quindi ho cambiato. Ah, io avevo 20 prima. Il primo ti manca. Cambiava? Ma che cazzo ne so, il secondo pure. Atanas. Allora, io attivo il mantello del crociato della mia spada. Yes. Te l'avevo scritto qua nella conversazione. Sì, sì, ma è tutti alleati intorno a me entro tipo 30 piedi, un D4. Che cosa? In più ai danni sono aggiungono un D4 radianti. Però non mi ricordo se devo usare un'azione per farlo. Allora, dov'è la descrizione di quella spada lì? Luce, si lancia mantello del crociato. Eccolo qua. Dice, puoi usare la spada per lanciare l'incantesimo mantello del crociato. Una volta usata questa proprietà non può essere usata fino alla prossima alba. Comunque sì, se ti dice puoi usarlo per lanciare quell'incantesimo, usi il tempo di lancio dell'incantesimo. È giusto che un'azione la scontrollo. Suppongo di sì, ma si trova in fretta. Consider manto. Self un action, sì. E in un'aura di 30 piedi da te, tutte le creature non ostili a me fanno un D4 incluso te stesso, radiante tra l'altro, buono, esatto, con i danni con le armi, weapon attack. Quindi chi è non ostile a te esattamente? Io non sono ostile a me. Non ne sarei così sicuro. Poi vabbè, poi niente, perché questa è la mia azione, quindi a posto. Ah, il movimento. Mi sposto di fianco a Varrist. Eccolo qua, sfortuna. Quindi che tutte le cose radianti sono insieme. Luce intensissima. Sfortuna. Palla di fuoco, palla di fuoco. Non posso fare senza fuoco. Colpire Garrosh, non è in ira. Ma chi se ne frega? Beh, scusa, anche se fosse stato in ira prendevi danni completi comunque. La chiesa è grandissima, Marco. Stai fuori palla mezzo mondo, cioè chi se ne frega. Tanto palla è un tiro sulla fuoco. Destrezza, ho anche vantaggio e il più uno palla della luce, dai. Ok, allora mi metto qui. A meno che tu non ti faccia degli scrupoli ad uccidere degli innocenti. In questo punto qua. Mi sembra che la risposta sia scontata. Qui? Ok. Anzi qua. Ma al posto di fare palla di fuoco, uso la per... fianco ai tizi? Alle progenie? Tanto... Ah, sono progenie? Sono sì, progenie. Okay. Dovrebbe andare bene, no? Invece di fare palla di fuoco, faccio cono di freddo. Mm-hmm. La uso la pergamena che ho trovato nella sì. cosa, quindi per 60 piedi. Mm-hmm. Fai il cono di 60 piedi, Marco. Vai. Allora, shape. Non so che apertura... Dovrebbe essere quella... 30 gradi, sa. Un quadretto, meno. Due quadretti... Sì, un quattro quadretti. Sei quadretti. Non c'è lo shape tra le shape che puoi. Che sbatto. No. Ma dai. Oh, che brutta cosa. Se no, si può caricare da qualche parte come immagine. Vuoi che nessuno abbia avuto questo problema? Fammelo buttare. One of course. In Roll 20. Vediamo se c'è qualcuno che ci ha già pensato. Measuring 5 equal area of effect. Allora, tu dici... Lo accetti questo? Ah, ok. Tu basta che fai una linea dritta... Sì. È 60, se hai fatto così va bene. Dov'è? Qua 50 addirittura. Puoi farlo ancora 10 piedi più lungo. Come fai a farlo? Hai fatto un poligono? Sì. Sei un genio. Giusto più di 60. Perfettamente mirato per colpire Garrosh, mi piace. Anche le progenie si bene. Quindi tutti prendono 8 di 8 sulla costituzione per dimezzare. Ok, tira 8. Tiro salvezza sulla costituzione. Sì. Vabbè, allora ultima parola. Sono 31. Oh, ma è vecchia anchierina. Dai, no, che vecchia anchierina. Si ferma esattamente fuori. Sì, è più quanto sarebbe volta. Stato divertente. Sì, perché dovrei uccidere Irina? Non è incosciente. Sarebbe stato divertente, però. Comunque 26. La CD? Ah, giusto, la CD. Comunque ha tirato molto sotto media. Bravo. Sì, no, 16. CD 16. Okay. È incredibile, perché cazzo, Salla tira così alto e tiro così basso? Mi sembra un tiro abbastanza medio. È un 1, un 7, un sacco di 4. La media è 4.5 per 8, dovrebbe essere 18, dovrebbe essere 36. 9 per 4, 36. Quindi è sotto 31, sì, vai di un pelo. di 5. Sì. Ok, quindi 31 danni. Quanta gente ammazzi? Beh, sicuramente ti prendi dei punti ferita temporanei tu quando ammazzi qualcuno. Vero? Beh, sì, ma io ce li ho già 13. Ah, già, quindi è proprio un massacro per il puro piacere di uccidere degli innocenti. Yes. Ottimo. Allora, quindi... Garro, se ce la 31, fai a passarlo? Io sei vado 26. 26, oh, oh. Quindi li prendi dimezzati. Quindi 15? 16? Sì. 15. 15. 9, no, ti togli 9 temporanei e prendi 6 danni. Ah, avevo 13 temporanei. Ah no, avevo preso 4 danni adesso, hai ragione. Però se ammazzi uno a caso, a un certo punto... Esatto. Quindi 93. Tipo a questo punto, se ti passa accanto, che ne so, un tizio chiunque, terrorizzato, sì, tu lo uccidi. E riprendi il DPF temporaneo. Ma voi non dovevate salvarci! Sì, sacrificati per la tua salvezza. Qua mi sa quello che è in corpo a corpo con Elia, lo becco. Quello che è in corpo a corpo con? Con l'angelo. Come fai a beccare? Beh, adesso vediamo. Potrebbe avere un vantaggio al tiro salvezza. Secondo me comunque Ilya non ha bisogno di aiuto contro di lui. Allora... Vabbè, prima finisce, più prima ci aiuta. Ok. Bene, anche questi scopati malissimo. Quindi tu hai tirato 27 iniziative e adesso te ne ha segate metà. Più o meno. Allora. Si beccano tutti anche questi. Ok. Che cosa complicata. Poi chi c'è, chi manca? Allora, tiriamo quelli importanti. Dove sei? Tu. Eccoti qua. Tiro salvezza sulla Costituzione. Mm-hmm. Ok, lo passa. Quindi sono 15. Poi l'altro importante, lui Costituzione, attitudine del suo maestro, non lo passa. Quelli che ho fatto 8, chi siamo? Io, te, 3. Tutti... Boh. Sì, però tu hai fatto 8 più 20. Io ho fatto 8 no. Totale. Io ho fatto 4 più 4, 8. Io ho fatto, sì, 3 più 5, 8. Siete in 3, effettivamente potete agire insieme nell'ordine che vi pare. Ti vuole andare dentro il cono di freddo? No, no, no, no, scusa, io non faccio un cazzo. Dove sei tu? Race. Stream in pausa. Ti ho ignorato. C'è la seconda volta. Sì, è vero. Povero, pensavo fossi in Navara, scusa. Dovrebbe aver già fatto qualcosa, Salla. Cosa ha fatto, no. Salla? Mirror Rage. Ah sì, ah, esatto, sì, che cazzo mio. Vuoi, porca troia. Aveva già fatto tipo, oh, questo combattimento non mi interessa. Merda, Vez, mi avevi promesso morte e invece sono ancora qua, full punti ferita. Anzi, no, più di quando sei stato... Direi che tu, chiaramente, noi verremo sconfitti tutti, ma tu sarai tosto. Però ovvio che per essere pignoli hai fatto buona parte della sessione chiuso in una bara, che è una cosa molto simile a essere morti comunque. No, perché ero comunque full punti ferita, cioè ne ho di più di quando ho cominciato adesso. Ma è vero. Questo è lo spirito del ladro, però. Vedo che tu sei un arcane trickster, però mantieni. Del resto siamo arrivati qua e tu ti sei castato Mirror Image, non sei andato dritto avanti. Cos'è questo? È anche mezzanotte, cioè nel senso, no, ma finiamo questo tour. Se, poi... se fossi dovuto morire, sei già dovuto morire da un po'. Ok, praticamente in questo cono di morte sopravvivono. Sì, riuscite a intravedere il, alcune progenie vampiriche che erano qui in mezzo e che sono sopravvissute. Il conte, che ha un po' di come dire, di nevischio addosso, e poi praticamente una foresta di statue di ghiaccio, perché quando uno muore per cono di freddo, se mi ricordo bene, si tramuta in una statua di ghiaccio, che adesso cercherò di raffigurare in qualche modo. Bene, Marco, adesso parla di fuoco. Vardi strano Atanas. Atanas aveva fatto qualcosa in realtà. No, cioè, in realtà io avevo, sì, io avevo fatto il mantello del crociato. Atanas. E quindi per ultimo. Per ultimo. Allora, sì. Misty Step non genera in teoria un attacco d'opportunità. No. Quindi faccio Misty Step. Select Move. No, aspetta però. Ah, no, sì, però devo fare l'attacco d'opportunità, ok. E arrivo dove con Misty Step? Sono 30 piedi. 30 piedi, arrivi qua. Fantastico. Attivo il medaglione con le 5 cariche. Mm-hmm. E Link. Ok. Da quanto sono da Strad? 6 a 20 piedi. Cazzo, sono anche vicino. Vabbè. Mi avvicino, dai. Senza prendere la cosa. Ah, bella. Cosa? La statua. No, senza provare a prendere attacco d'opportunità. Beh, ma spara il medaglione. Ho già sparato il medaglione. Ah. Mm-hmm. Allora mi sa basta perché è la tua azione. Avvicino. Movimento. Non hai fatto un movimento. Ha fatto Misty Step. Forse ok, basta, altrimenti poi è un casino. Però. Hai evitato l'attacco d'opportunità intanto. Dice avvicinarti. Non gli arrivo proprio in bocca, però magari un pochino prima. Puoi stare anche a 20 piedi, va bene. Sì, è uguale. Così... Dove vuoi? Va bene anche rimanere a 20 piedi, tanto a raggio di 60. No, però lo posso ingaggiare, no? Dimmi tu. Lo posso? Sì. Lo ingaggio, dai. Ok. Almeno. Solo così in singolare tenzone? Vabbè, senti. È molto onorevole, in effetti. Come si confa a una matrona romana, e volevo dire a un paladino. Una matrona romana. Vabbè, così magari si sfa su di me, babbazza, e poi dopo date voi. I corvi volano ai lati, raggiungendo gli elfi e portando loro archi e frecce e sciabole o qualsiasi arma. Ah, gli elfi sono sempre vissuti? Sì, perché prima del tuo turno si erano spostati per andare incontro ai corvi. Ma gli elfi sono i nostri elfi? Sì. Ah, io pensavo di doverli ammazzare tutti. Beh, questo una cosa non implica la... Esatto, abbiamo già visto in passato. Vabbè, ma quello, cioè nel senso farlo prima, mentre adesso posso farlo dopo. Okay. Non fa dei danni subito, giusto il medaglione? All'inizio allora, del turno del vampiro. All'inizio del turno del vampiro. Grazie. Quindi commoners praticamente sono stati massacrati. Perché il medaglione fa solo luce solare e i vampiri hanno la debolezza alla luce. E quando inizia il turno in luce solare prende 20 danni radianti. E ha svantaggio agli attacchi e agli ability check. 10 turni dura? Dura, mi sa, 30 minuti. Sì, durava tanto, anche io mi ricordo che eravamo abbastanza tranquilli perché durava tanto. Sì, però duro meno io, purtroppo. Vabbè, chi se ne frega. No, basta. Scusa, 10 minuti. Se dovessi cadere a terra, 10 minuti. So. Forse sì. Beh, una volta acceso il medaglione rimane acceso. Ma non cadrai. Dura 100 round. Vediamo. Ok. Ah no, la cosa si interrompe solo alla fine del coso se tu decidi di interromperlo. E se tu muori non si interrompe. Da come ha fatto ad evitare le progenie che sono qui all'ingresso? Ha adesso fatto Misty Step. Ah. Proprio suicida fino all'ultimo. Ok. Okay. Se c'è qualcuno che vuole, deve morire, para di stare. Vabbè, rega, io provo a combattere. No, no, è giusto, è giusto. No, no, è giusto. Ok, al termine del tuo turno, Strad ti guarda con odio e disprezzo. Pagherai con cara, pagherai. Ormai hai sbagliato la frase, hai fatto, l'hai sbagliata. Tolta l'inspiration a Strad. Non l'ha mai avuto. Pagherai col dolore il tuo affronto. Non meriti di indossare l'armatura che porti. Ok, giusto. Però 20 danni li prende, però. Pregherai per ottenere la morte. Mi implorerai affinché cessino le torture che ti infliggerò. Sei sicuro di passato il turno? Via, avanti il prossimo. No, il punto è quello che ti dicono tutti i giorni al lavoro. Il punto che non era il suo turno. Non era il suo turno. Semplicemente usa una sua azione leggendaria e che gli permette di muoversi senza provocare attacchi di opportunità. Che gli permette di dire frasi epiche durante il turno. Esatto, vabbè, ma quello lo poteva fare anche senza l'utilizzo di azioni particolari. Dove sta scritto pure questa cosa? Quello che tu ci stai facendo. Quindi cosa fa? Scappa. Io credo che lo faccia. Aspetta, climb, regeneration, miss escape. Beh, dov'è che sta scritto quello che sta per accadere? Siamo morti. Era nel messaggio TPK. Ah, era quello. Ah, eccolo. I win the end. Cosa vuol dire questa frase? Questa Strad. Una layer action. Che sta succedendo? Ah, che roba. Che gongola, catta. Un po' sì. Lo spetto la luce in casa catta. Esatto. L'oscurità scende sulla terra. L'oscurità vince. Qui perdiamo il più uno nella luce. No. Esatto. Quello ormai non ve lo posso più togliere. Sarebbe troppo scomodo rimodificare tutte le schede. No, ma la battuta era perché ti hanno spento la luce. Esatto, mi stanno lanciando. Ora c'è anche il lancio di oggetti. Che non so se sono intimi o meno, non vogliamo. Bene, no, niente, come un codardo, Strad si allontana. La pagherai, però lo vediamo. Ma non adesso. Palle, non finirà più. Non ci vuole neanche uccidere. C'è neanche questo regalo. Sto giocando a un gatto strano. Però, Salla, sinceramente, arrivato a 81. Beh, non vuoi arrivare a 100 per farci. Cioè, non ci vuole neanche ammazzare. Ci sta veramente perculando. Perché tanto non è che poi possiamo salire. Sarebbe troppo facile per te morire. Esatto. E questo conclude il primo di una lunga serie di turni. Però non mi sembra 60 piedi da me. Non ti sembra 60 piedi da te. ma lo è. Ok. Beh, no, bene. Se tu eri a contatto, sei mosso e a 30 piedi. Quello che ogni tanto involontariamente qualcuno comincia a giocare. No, adesso quella ce l'ho in testa. In realtà ce l'avevo da prima, appunto perché mezz'ora prima di connettermi ho ascoltato mezz'ora di sta roba. Bene, raga, vi saluto, ciao. Ci vediamo alla prossima. Va bene, questo è l'inizio della fine. Per il secondo round questo è l'inizio della fine, una lunga maratona di 25 episodi che ci porterà tra 3 anni e mezzo a terminare la maledizione di Kata. Continuate a seguirci, almeno altri 19 li vogliamo. Grazie se l'avete fatto, a proposito continuate a farlo sui nostri canali social Tycoons & Dragons e RGDR, sperando anche che arrivino anche dei nuovi articoli. Chi può dirlo, chi può saperlo? Kata e Giulio. Ma a parte questo, buonanotte, alle prossime, sempre con noi, sempre qui, Total Party buonanotte. Kill è solo rimandato, buonanotte. Ma arriverà molto presto. Ciao. Bene, ragazzi, scappo che il cellulare è scarico e anche io. Parole io grosse dal parte. Parole strane di un uomo peloso. Molto strano. Va bene, amici del podcast. Assonnato. Ciao.